Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar Giannino, caro bentrovato. Alessandro, eccoci qua, cari ascoltatori, buon inizio di giornata. Io devo solo salutare, perché sennò si arrabbiano giustamente, gli alpini di Caronno Pertusella, che festeggiano i 40 anni. Già da ieri mi diceva, ci salutate in onda. I 40 anni della sezione. 40 della, anni della sezione, sì certo, gli alpini di Caronno Pertusella, Varese. E grazie a tutte le penne nere che sono nelle strade, qui a Milano, fuori il Duomo e così via, nel mondo, dispositivo di sicurezza, cioè, insieme a tutti gli altri appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine. Oggi San Fausto, che pensa è un martire, come sempre anche lui, è un sano imperatore romano, Massimiano gli fece insieme a tutti quelli della sua legione, ma è il patrono, pensa, degli strumenti a fiato, cioè dei politici. Sto scherzando, come alla sempre. Fine i politici hanno sempre i santi in paradiso, come si suol dire, hanno tutti i santi in paradiso. Allora, è venerdì, caro Oscar, è passata una settimana dalla tragedia di Parigi. È psicosi, ma sai che tra l'altro ci hanno avvertito, c'è prima un'ascoltatrice, abbiamo verificato, è vero, c'è la metro A chiusa a Roma, controlli della polizia, ormai siamo costretti a vivere così adesso. Ma non hanno già vinto se siamo costretti a vivere così? Temo che sia così. Poi più per che qualcuno si vuole sentire protagonista. Non credo affatto che siano telefonate di, per così dire, sostenitori non dichiarati dell'ISIS che alimentano la strage del terrore. C'è qualcuno che regolarmente... Oppure basta un sacchetto abbandonato. Cioè, solo che nelle nostre città si trovano i sacchetti abbandonati. Ci mancherebbe altro. Però è inevitabile, è inutile che ci... Cioè, a me più che preoccuparmi questo, mi preoccupano altri aspetti, cioè se Salah è uno di quelli, no, dell'assedio di Saint-Denis e andava e veniva passato regolarmente tra l'Italia e la Grecia per poi andare in Siria, e le autorità francesi dicono beh, veramente lo abbiamo dovuto sapere dal Marocco, ecco, mi preoccupano più questi buchi della sicurezza. Sì, anche perché prima leggevi, diciamo, sulla stampa dicendo quanti sono i paesi che comunicano regolarmente all'Europol le loro scambi di informazioni sul terrorismo. Su 28 paesi europei solo 5. Tra questi c'è l'Italia? No. Ecco, neanche l'Italia. Cioè non scambiamo, e lo ricordiamo che il procuratore Roberti 2 giorni fa ha più volte ribadito, 3 volte ci ha detto, il problema è questo, le gelosie dei paesi. Anche questa Baud veniva dalla Siria come prendere il treno e andare a Roma ormai, no? Milano-Roma. Quindi Milano-Roma. Se nemmeno tra coloro che sono ipersegnalati dalle autorità nazionali antiterrorismo, perché di questo si tratta, no? Perché anche questi di Saint-Denis, in realtà i capi erano conosciutissimi, le autorità nazionale, se neanche questi vengono segnalati nei loro spostamenti dentro e fuori Schengen, ragazzi, ma tutti questi soldi li buttiamo dalla finestra noi per le forze di sicurezza. Infatti non vorremmo, cioè va bene più fondi all'intelligence, sì, però poi usati bene effettivamente, e poi non state appollaiati sul sedere di ogni competenza nazionale, perché altrimenti è inutile. Però io approvo quello che oggi il prefetto di Roma Gabrielli dice in un'intervista a Avvenire, e dice sto cercando di convincere in tutti i modi le persone a cercare di vivere normalmente come prima, cioè andare nei teatri, andare nei cinema, andare negli stadi, andare nei metropolitani. Ma perché lui a Roma deve convincere la gente a votare PD, questo vuole dire. Ah, dici io, accidenti, non credo un pochino anche. Vabbè, quello magari una battuta, sì, non... Prefetto Gabrielli, non mi arresto. Prefetto Gabrielli è invitato come tutti, come De Luca, come tutti. Noi, a noi piace anche un po' celiare. Esatto, un po' di ironia ci vuole. Sicuramente. No? Comunque, insomma, dice fate la vita normale. Lo so che non è facile, è veramente psicosi. Le metropolitane anche a Milano sono semivuote, la gente si sposta, prende le macchine, eccetera. Ma se devono colpire, se dovessero mai colpire, colpiscono tranquillamente. Certo, mi ha stupito il Premier Val che dice attenzione alle armi chimiche. Quello forse un po' troppo, un po' di terrore di troppo, è come espandere una specie di fobia complessiva. Questo secondo me... però serve a far capire agli alleati anche che la Francia è delusa dalla scarsissima risposta concreta alla sua richiesta di cooperazione europea internazionale. Cioè, ho capito, quindi spargi il panico così? No, spargi il panico, fai capire a voce alta che in realtà pezzi dei tuoi servizi hanno notizie di... la possibilità di far danno molto più grave di qualche cintura esplosiva suicidaria. Ecco, questo è quello che mi hanno detto ieri persone che si occupano di queste cose, perché anch'io ero rimasto molto colpito e allora ho iniziato a telefonare, a fare il nostro mestiere. Ma com'è l'interpretazione di questo messaggio così strano? E quindi addirittura viene interpretata come un segnale alle cancellerie. In effetti l'Europa cosa ha risposto alla Francia? Beh, che però ha detto vi diamo aiuti, zero. Ah, tra l'altro senti questa, Gentiloni, ministro degli esteri, è con quale sicurezza dice che nessun militare andrà in Siria. Ma senti, nessuno metterà scarponi in Siria, né Hollande, né Obama, né noi. Hai capito? Né Hollande, né Obama e né noi. Nessuno andrà scarponi sul terreno, cioè i militari lì, nessuno li manderà. Su questo segnalo tra i giorni di oggi, a me è piaciuto molto, mi sembra azzeccato, su Repubblica, la colonna politica di Stefano Folli, che dice in una specie di grande gioco, di grande gara in atto, una di sfida a chi ha il profilo più basso tra Renzi e il Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo e il nocciolo del suo pezzo. Ti dirò però che una cosa che mi ha molto colpito è il Papa, e questa volta non sono d'accordo. Ah. Perché il Papa prende gli applausi sui social, dei Papa media. Che dice maledetta il Papa guerra. Che dice non voglio la macchina blindata, per favore, okay, niente porte blindate, niente profili di sicurezza fisse. Allora, questa cosa genera molti applausi, ma come si traduce? A ogni no a un dispositivo fisso di protezione antiterrorismo si moltiplicano gli uomini e le risorse che l'Italia deve mettere a disposizione per proteggerlo. Quindi è una roba che serve a prendere gli applausi, ma è un controsenso, ecco. Allora, vogliamo chiederlo al nostro primo ospite, che è il direttore del giornale Alessandro Sallusti, che è con noi. Buongiorno direttore. Che è oggi uno dei titoli di prima pagina, poi vedremo l'altro che è relativo a Berlusconi, ma è proprio già ostaggi della psicosi. Ma no, siamo costretti a vivere così, Sallusti? Dovremmo vivere nella psicosi perenne? Beh, che sia una costrizione, un'autocostrizione, sta di fatto che è così. Per anni il mondo islamico ci ha costretto a cambiare l'abitudine usando la leva della compassione, per cui come dire, di fronte a questa ondata di disperati abbiamo cambiato, forse senza accorgersene, di volta in volta delle nostre abitudini. Abbiamo cambiato tutta la liturgia laica del Natale, sono spariti tutti i segni per non offendere queste persone. Poi adesso stiamo cambiando l'allestimento delle nostre mostre, ci sono già dei casi in cui non esponiamo dei quadri che potrebbero offenderli. Insomma, abbiamo cambiato degli stili di vita con la compassione, per la compassione. Adesso ne cambiamo altri per la paura. Per la paura. La metropolitana, i luoghi pubblici, gli stadi, sì. Abbiamo sospeso delle partite. Insomma, con le buone e con le cattive stanno raggiungendo il loro primo obiettivo, che è quello di cambiare il nostro stile. Sì, brutalmente, forse hanno già vinto, non è così, non voglio dare questo messaggio, però l'impatto è proprio che non ci facciano paura, eh. No, ecco. Anche qui, sondaggio su Repubblica, un italiano su due è disposto a cambiare vita, cioè uno su due sono percentuali. Sì, poi sai, fai questo sondaggio magari tra un mese. Infatti ho detto sulle emotività. Seconda domanda per il direttore generale Sallusti, buongiorno anche da parte mia, anche un abbraccio personale, ci conosciamo. Quindi, ieri sera mi ha colpito Cacciari in un talk, quello condotto da Formigli, ha detto no, ma quale componente religiosa negli adepti dell'ISIS si spiegano perché la sana vecchia guerra di classe, ha detto testualmente, che torna di attualità. Oggi sulla Stampa mi ha colpito una specie di risposta in diretta a Cacciari, c'è un'intervista a colei alla quale la prefettura di Parigi affida i programmi, quei ragazzi che sono esposti a diventare sostenitori dell'ISIS e dell'islamismo jihadista, e in questa intervista, si chiama Sona Imlul, lei dice disperati? No, appartengono al ceto medio, sono più che altro sbandati. Allora, tra matrice religiosa e chi dice no, è perché non li sappiamo integrare e li lasciamo poveri. Sallusti dice che la radice di chi si affilia nei nostri paesi all'islamismo qual è tra le due? Ma è un mix come sempre è stato nella storia, perché le guerre di religione, che sono vecchie quanto il mondo, hanno sempre fatto leva poi su sulla disperazione delle loro classi socialmente meno ambienti, e quindi è difficile mettere anche perché però pare che questi qua di San Denis ci sono oggi sui giornali, tutti hanno pezzi, interviste, ricostruzioni che dicono degli altri amici musulmani che li conoscevano, veramente questi li vedevamo con donne, sì, birre, sì, eccetera, bere, eccetera, bene. Beh, ma questo è evidente, cioè all'interno del popolo islamico che vive e vaga un po' nomade per l'Europa, sicuramente questi signori all'interno di quella classe appartengono non certo alla fascia inferiore, sono per una maggior parte dei casi già integrati, avrebbero comunque la possibilità di integrarsi. Cioè, io ci credo poco che sia la guerra di classe, ecco, devo dire la verità. Ma perché si ha paura nel 2015 di dire che esiste ancora la possibilità di una guerra di religione. Se togliamo le ultime due guerre, che sono quelle nelle nostre memorie più vive, le guerre sono quasi sempre avvenute per motivi religiosi. Per secoli gli eserciti hanno invaso i paesi chiamati dal Papa per difendere la cristianità, e financo nell'ultima guerra la componente ebraica, che comunque non è soltanto una componente che riguarda l'economia, la finanza, ma riguarda anche la religione, è stata decisiva nella seconda guerra. Quindi lo è, secondo... dobbiamo aver paura a dire che c'è un problema di guerra di religione. Ah, interessante, perché oggi per esempio sempre Gabrielli dice su Avvenire non tiriamo in ballo, cioè sono criminali, terroristi, ma non tiriamo in ballo scontri di civiltà o guerre di religione. Beh, essendo il profeta di Roma, ecco, lui deve naturalmente tentare, ma no, oltre a quello, no, prima l'hai detto, prima l'ho detto, perché credo che sia un po' la missione affidata, perché i prefetti sono all'ombra della politica in Italia quando hanno questi incarichi. Però detto questo, lì essendo di Roma tenta di deviare da Roma, chiaro, del Vaticano, quindi... Invece lo è uno scontro di civiltà, Sallusti, secondo lei? Beh, è sicuramente uno scontro di civiltà, questo mi sembra innegabile, cioè quella profezia di Oriana Fallaci direi che si sta verificando, che proprio aveva visto uno scontro di civiltà, e la Fallaci aveva detto con grande lucidità e senza nessuna traccia di razzismo, con un'analisi molto lucida, che la nostra è una civiltà superiore, cioè è una il mondo islamico rispetto a noi è fermo al Medioevo. No, ora, no, ma è chiaro, questo è il dibattito. Venendo ai fatti italiani, caro direttore, qui c'è una questione che la riguarda personalmente. Come dobbiamo fare la domanda la più diretta possibile? Si parla di lei. Lei dice se sono fiore, se fioriranno. No, Giorgia Meloni oggi sul Giorno dice: se dice sì, è un ottimo nome. Quindi c'è già Repubblica, anche Giorgia già Meloni. Titola oggi: Sallusti, candidato centrodestra a Milano, virgolette, c'è un'offerta seria. Ok, allora mettiamola così: quante percentuali ci sono che sia il candidato di centrodestra a Milano, Alessandro Sallusti? Ma guarda, la premessa è che con i problemi che ci sono in queste ore, in questi giorni, parlare della candidatura al Senato di Milano è imbarazzante, non credo che sia al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Detto questo, la verità è che stiamo ragionando sto ragionando con la coalizione di centrodestra per vedere se ci sono le condizioni per una candidatura. Quindi non è una cosa molto serena, è una questione molto serena, molto aperta. L'unica cosa, cioè l'unico fatto è che ovviamente una decisione andrà presa in tempi rapidi Quanto rapidi per capire, cioè, quindi non è un no secco, se sta ragionando vuol dire che ci sono degli elementi. Entro quando si deciderà? Ma immagino che sia questione di poche settimane. Esatto, sì. La verità è che per la seconda settimana di dicembre, no, le candidature bisogna averle chiare in testa. Qualche mese di anticipo. Ma tu te lo ricordi, vero Sallusti, il carissimo direttore, che avevi in un annetto fa detto in un'intervista: ma se volessi mai candidarmi, interditemi, incatenatemi. Sono le cose che si dicono, però insomma l'avevi detto. No, invece ti faccio una domanda più seria. Secondo te, lo chiedo al giornalista, adesso non ancora al candidato, poi vediamo come rispondi, se da candidato potenziale o da giornalista. Ma a Roma, secondo il direttore del giornale, centrodestra non farebbe meglio a andare sulla linea un candidato Marchini si può perseguire ancora o secondo te è abbandonata? Perché oggi Marchini su due giornali diversi dice cose diverse. Uno dice vabbè prendo atto, la destra non mi vuole, nell'altro dice non ho ancora capito bene. Ma secondo te? Ma io penso che il primo sforzo del centrodestra debba essere quello di rimanere tutti uniti, non solo perché dal punto di vista numerico è l'unica possibilità di vincere le elezioni, ma anche perché altrimenti si mandano segnali confusi all'opinione pubblica, la quale giustamente negli ultimi mesi o addirittura negli ultimi quindi anni. Quindi tradotto, se Giorgia Meloni non gli va giù, dobbiamo tenerci Giorgia Meloni. Però anche Giorgia Meloni oggi sul Giorno dice non lo so se mi candido, cioè è una fase di grande incertezza. Sì, esattamente. Cioè, il caso a Roma è un caso un po' anomalo. È un caso un po' anomalo anche perché insomma a Roma sono cadute delle cose a livello politico, non solo politico, che la rendono particolarmente delicata. Dopodiché, il mio auspicio sarebbe stato che tutto il centrodestra fosse confluito su Marchini. Se così non è, ci vuole, vedremo. Cosa succede, ma dovendo scegliere preferirei un centrodestra unito comunque che non spaccato su più candidati. Io avevo un'ultima domanda sulla questione appunto Milano, a capire il ragionare sulla base di alcune condizioni, cioè qual è una condizione imprescindibile per Alessandro Sallusti per candidarsi? Ma verificare che questa scelta sia gradita agli elettori, che mi sembra l'unica cosa. E questo però lo stabilirebbero nel caso solo le urne. Lo stabilirebbero le urne, ma insomma ci sono degli strumenti. Sondaggi. Cioè non essere votato a perdere a tavolino. Sallusti ci fa capire, e lo capisco, non voglio essere un candidato a perdere, ci devono essere delle chance. In questo caso forse se vai tu anche come sala a Santiago di Compostela fare il cammino del forse può aiutare. No, è una battuta. Dai, vabbè, allora buttiamoci in avanti. Se essere un sì, quale sarebbe il candidato da affrontare, a parte diciamo il Movimento 5 Stelle ce l'ha già Patrizia Bedori, ma quale candidato di sinistra vorresti affrontare nel caso dovesse essere un sì da parte tua? Ma io credo che se fosse un sì è abbastanza rilevante che il candidato di sinistra, perché vorrebbe dire che il centrodestra sia nella sua classe dirigente che nel suo elettorato è convinto di questa scelta . E quindi è una in ogni caso uno se la può giocare. Questo sì, però con chi, cioè Sala diplomatico. Sono già risposte, va bene. Possiamo dirla in cui c'è insomma un po' più politico direttore va del bene, giornale. Dai. Sallusti, grazie davvero per essere stato con Alessandro Sallusti, grazie. Direttore auguri del giornale e chissà è candidato. Potenziale candidato. Mamma mia. Chissà se Sallusti imparerà anche lui a dire le supercazzo. L'hai sentito questa? Cioè la supercazzo entra nel vocabolario italiano. Entra nel vocabolario Zingarelli, la supercazzo. Arrabbia tapioco. Prematurata la supercazzo, o ma te la ricordi mitica? La supercazzo. Mitico davvero. Allora, dobbiamo andare in pubblicità perché tra 5 minuti avremo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A proposito di sindaci un po' slegati dai partiti. Ecco, interessante. A parte che lui fa delle cose, dice delle cose su Venezia che creano dibattito e quindi sarà ai nostri microfoni. Oggi scrive Stella sul Corriere della Sera: Venezia è governata da un capitan fracasso. Addirittura pensa un po'. Tra 5 minuti con noi. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Siamo qui, caro Oscar, abbiamo sbagliato no, il salto. Oh, non abbiamo, è la responsabilità del nostro, perché no, nella mia cosa mentale, il santo di oggi, virgola, martire insieme alla sua legione di Massimiano, virgola, protettore di strumenti a fiato, e in realtà Santo Ottavio, solo che Fausto era ieri, automaticamente i nostri ascoltatori subito bravissimi, sono... grazie. Santo Ottavio, quindi oggi, il protettore di strumenti a fiato, cioè dei politici, è hai visto già direttore del giornale che da candidato potenziale già parla con una diplomazia, che non è proprio quello del titolo, no? Ma a proposito di sindaci, noi abbiamo qui un altro sindaco, è il sindaco di Venezia, Luigi Luigi Brugnaro, sindaco, buongiorno e ben trovato qui a Radio 24. Buongiorno Alessandro, buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci. Allora, caro sindaco, la sicurezza intanto, perché insomma, cosa si teme? Ho letto che sul Carnevale di Venezia, lei auspica qualcosa non di... Non si teme niente. Non si teme niente. È stato Zaia però che ha Zaia ha detto... Ma, insomma, c'è sempre chi attende, che insomma, giustamente noi dobbiamo sempre prendere in considerazione tutti i timori e tutti i suggerimenti, però noi avevamo un dispositivo già organizzato addirittura prima che succedesse il fattaccio, sì. E insomma la città è presidiata da sempre, per cui abbiamo una attenzione speciale per Venezia, le forze dell'ordine sono, adesso dopo quello che è successo abbiamo rinforzato il dispositivo, per cui insomma. Quindi non ci sono controlli ulteriori rispetto a tutto quello che è già previsto? No, abbiamo ulteriormente diciamo specializzato il dispositivo di sicurezza, però va detto che insomma certe azioni sarà l'intelligence a bloccarle. Qui devo dire che le forze dell'ordine, no, da noi, con la scusa delle esperienze che abbiamo avuto in passato, il terrorismo eccetera, da sempre hanno funzionato molto bene, carità. Tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, eccetera, ma questo posso garantire che è una città sicura e soprattutto serena. Dopodiché, ovviamente, come tutti, siamo molto arrabbiati, siamo molto, molto, molto tristi per quello che è successo, ma penso che da Venezia debba ripartire un'idea politica dell'Europa. Ma ha visto che oggi Corriere della Sera Stella un po' la irride proprio sull'idea che lei ha lanciato a questo proposito, perché lei ha detto ma insomma, Stella, Venezia si offre. Stella mi ride da quando io ho cominciato a fare il sindaco, per cui ma cos'è una faccenda personale? No, non lo so, questo dovrebbe chiedere a lui, insomma io non... però lei ha detto Venezia si rende disponibile attacca, in nome del suo passato, sì. Che era un ponte, e un ponte anche a volte molto combattivo, perché si difendeva nel Mediterraneo rispetto all'Islam, all'Impero Ottomano, sì. E così via. Lei dice, cari Obama, caro Putin, venite qui. Parliamo di qua. Sì, ma scusate, queste sono semplificazioni giornalistiche che solo Stella riesce a fare, no? Perché i lettori di Stella vogliono cose semplici. Il discorso è un po' più complicato. Noi abbiamo una città accogliente da sempre. Qui in questa città ha dato segnali importanti di integrazione alle varie comunità. Dal ghetto degli ebrei, voi sapete che il prossimo anno ci sarà il cinquecentenario del ghetto, una comunità che si è integrata perfettamente, che ha dato molto alla città, parlo dei secoli con cui ci sono gli islamici, il fondaco degli egiziani, dei turchi, la stessa città che non c'è dubbio Venezia sia il centro comunque della cristianità e del cattolicesimo. Noi siamo quelli che hanno salvato il Papa nei tempi che lo cercavano, abbiamo fermato i turchi a Lepanto, però abbiamo una tradizione di integrazione, qui ci sono religioni, culture, razze. Quello che noi stiamo cercando di dire è che a Venezia il Doge era eletto dal popolo, era una democrazia, la prima democrazia d'Europa, ma il Doge qui, a differenza delle altre cortigiane che c'erano nelle altri stati europei, sì, era circondato da diplomatici, per cui la storia nostra è la diplomazia. Quindi lei lancia questo ruolo, rilancia questo ruolo per Venezia. Non è la semplificazione di fare un convegno, sì, qui grandi la terra, sarebbe veramente ridicolo e solo Stella può cogliere questo aspetto. No, noi pensiamo a un percorso che parte dai bambini, noi abbiamo dei progetti che vanno avanti da anni ormai, di integrazione tra bambini dei vari stati, turchi, sì, islamici, la città di Israele, e facciamo dei disegni a più mani, per cui deve partire da una logica di integrazione tra i bambini, chiaro, tra di integrazione e di inclusione. Sì, e a Venezia potrebbe diventare, se il governo volesse, questo atteggiamento che alcuni contestano di diciamo troppo attendismo, io lo vorrei leggere in maniera diversa, come un atteggiamento di prudenza. Se verrà letto così, Venezia potrebbe essere il luogo perfetto per la diplomazia, per essere un luogo in qualche modo neutrale, e chi può meglio dell'Italia candidarsi a provare a costruire l'Europa politica. Però sindaco, veniamo invece ai problemi che lei ha segnalato, come tanti altri sindaci di vari comuni, per esempio i soldi, no? Un comune che è in rosso, hanno fatto anche polemica alle sue proposte di vendere un Klimt per fare cassa, ma si svende così le opere, l'arte? Svendere un Klimt, voglio dire. Vabbè, un Klimt è un quadro come tante altre opere d'arte prestigiosissime. Allora il passaggio è questo, che io non sono un sindaco di una città come un'altra, questa è una città speciale, cerco di spiegarlo, se no sembra una questione di arroganza. Questa ha una, un costo di manutenzione che sono speciali, cioè costano di più che non una città normale. Parlo del centro storico e delle isole, tant'è che c'è una legge, lo diciamo anche ai telespettatori, ai radioascoltatori, c'è una legge che garantisce la specialità di Venezia, cioè spiega come una città che vive sull'acqua ha dei costi diversi. Pensate che per pulire la città, parlo sempre e soltanto del centro storico e di Murano e delle isole, noi la scopiamo tutti i giorni, può sembrare anche una battuta, a mano. Cosa vuol dire? Che abbiamo un delta di costo solo per le pulizie, di differenza di costo rispetto a una città normale, all'anno di 30 milioni di euro. Ma avrete più risorse, no? Avrete più fondi? No, non abbiamo più risorse. No, le pagano i cittadini veneziani, cioè che sono ipertassati. Io, se voi mi dite come fa adesso lei sindaco, se il governo non le darà niente, io ho fatto un'operazione verità e negli ultimi anni... E negli ultimi anni i governi che si sono succeduti ci hanno tolto tutti quanti i fondi per le manutenzioni, cioè la città viene giù. Quindi lei cosa chiede? Cosa chiede? Beh, allora noi abbiamo fatto una domanda di ricostituire il comitatone che è previsto dalla legge speciale, dove devono esserci date quelle risorse previste dalla legge per fare le manutenzioni straordinarie. Noi abbiamo i pali che marciscono continuamente, cioè perché l'acqua è salata e dobbiamo cambiarli continuamente, 2-3 volte l'anno a seconda della situazione. Abbiamo gli intonaci che vengono giù perché l'acqua salsa, evidentemente mangia l'intonaco e vanno continuamente. Per quello che vuol venire il Klimt. Io evidentemente dico, allora al governo dico faccia la sua parte, ma l'ho chiesto in maniera non arrogante, non vorrei che questo sembrasse. Ho detto voglio rilanciare la città, voglio ricominciare da Porto Marghera, sono 40 anni che non si fa più niente, abbiamo perso 40.000 posti di lavoro. Io ai miei giovani, quella ragazza che è morta, parliamoci chiaro, era una ragazza, un cervello in fuga, vuol dire che a Venezia non siamo stati capaci, tutti noi, mi metto anch'io dentro, di dare una prospettiva a un giovane che trova un lavoro qui da noi. E allora noi dobbiamo rilanciare la città, abbiamo bisogno di fare le manutenzioni ordinarie del centro storico, ma soprattutto anche pensare a un piano di sviluppo e di rilancio. Sto facendo adesso, finisco subito, è quello di mettere, ho tagliato tutto il tagliabile, tutto quello che potevo tagliare, ho tagliato tutti gli incentivi ai dipendenti comunali, tutto, non c'è più niente, c'è lo stipendio basico, penso siamo quelli che prendono meno soldi di tutti, ho tagliato dove le vorranno bene in comune, le vorranno bene. Ma non è vero, cioè capiscono, no, io ho fatto un'operazione verità, non è una questione di cattiveria, ci stiamo provando tutti insieme, ci sono tante persone di buona volontà, mi creda, questa città vuole reagire, è la città più resiliente al mondo. Cioè la realtà è che noi ci stiamo offrendo, non soltanto, noi non vogliamo la carità di nessuno, vogliamo rilanciare le aree di Porto Marghera, dobbiamo riattivare qui l'economia. Possiamo non ho capito i soldi. Però come... io posso spezzare una piccola lancia, io preferisco un sindaco che dice se io i soldi non ci sono, più che tassare io vendo anche le grandi opere che tanto in mano ai privati comunque faranno redditi e erano resi fruibili. Io preferisco una cosa. Tra l'altro, scusi, aggiungo anche la legittimità di quello che sto dicendo, a prescindere che comunque... Comunque è sempre l'ultima risorsa, sì, è chiaro, ovviamente. Però le dico, la legge prevede che noi garantiamo le collezioni certo. Tutta la storia della città, quello non vengono toccate. È che sono, noi abbiamo dei quadri, non c'è soltanto il Klimt che è tra l'altro quello che ha fatto più scalpore, ma ci sono dei quadri, diciamo moderni, che sono semplicemente valori che magari non il pubblico non ha neanche le superfici espositive per valorizzare. Ma è un'ultima spiaggia o è una cosa concreta? No, allora io sto facendo le opportune verifiche di legittimità, evidentemente. No, io le cose che dico poi le faccio, lentamente le faccio. È chiaro che se arrivassero risorse diversamente, noi stiamo intanto valorizzando, non ha senso, non è che parto da questa cosa qua. Per esempio, la tassa sui turisti a me ha colpito, una bella tassa sui turisti, perché non si può. Allora, le spiego, ci sono le leggi. Qualcuno dice mettiamo i tornelli, chiudiamo la città, eccetera. Allora, detto che sarebbe da aprire il discorso se è il modo o no di fare le cose, eccetera, non si può. Ci sono le leggi in Europa, c'è la libertà di circolazione delle persone, non è possibile, tecnicamente non è possibile. Però cosa abbiamo pensato noi? Di andare assieme ai privati. Allora io sto trattando da 2 mesi con le compagnie delle navi da crociera, perché siano loro a darci un contributo volontario sulla base in cambio di servizi che noi concediamo a loro, di un'attenzione particolare, una disponibilità particolare volontario verso le imprese private. Lo stiamo facendo con i privati che costruiscono, con quelli che vogliono venire a investire. Pensate che io ho trovato uno sbilancio di quest'anno di 30 milioni di euro. A oggi vi posso dire che chiuderò il bilancio in pareggio. Per la prima volta dopo 30 anni il Comune di Venezia, entro il 31 dicembre, approveremo il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Non sto chiedendo la carità, io posso rilanciare la città, e quando rilancerò la città di Venezia può aiutare l'Italia. se si salva Venezia si salva l'Italia. Guardate che il problema dei buchi e dei debiti che ha Venezia è lo stesso problema che ha l'Italia, se si alzano i tassi di interesse siamo rovinati tutti e bisogna fare devo fare una domanda al sindaco, ma all'imprenditore, all'imprenditore sindaco è uguale, perché quando ho visto ieri abbiamo visto lei sa, scusi Giannino, sa che io sono qui gratis, sa che non prendo lo sappiamo, ma ripetiamolo perché non tutti lo sanno. Ha rinunciato allo stipendio da sindaco, certo sì. Io lavoro 16 ore al giorno, credetemi sulla parola, 16 ore al giorno, ho 5 figli, sono qua solo per una questione di coscienza. Aspetti la domanda perché sennò non ce la allora, come giornalisti, glielo dobbiamo fare, cioè la mia domanda è, rispetto il fatto, ieri ha pubblicato un articolo su nomine a Venezia in cui ci sono ente per ente di alcuni degli enti partecipati o controllati o delle società del comune in cui si segnalano tizio che è parente di Caio, di chi è stato candidato in questa lista. Papà. No, aspetta, io quello che le voglio chiedere è questo, ma sono i partiti che spingono sull'imprenditore o è il sindaco che dice guardate se ci sono parentele è gente su cui metto la mano? Ma assolutamente, no, sono io, mi assumo completamente la responsabilità. Guardi, la cosa veramente particolare e singolare a Venezia è che io ho avuto carta bianca dai partiti, mi assumo completamente la responsabilità delle mie azioni. Considerate che io non ho mai fatto politica, pensate, non sapevo cos'era la differenza tra una determina e una delibera. Cioè, immaginate dove sono partito, in una situazione del cavolo, d'altra parte non mi sarei candidato in una condizione normale. Allora, cosa è successo? Io non ho un partito, non ho un riferimento, cerco persone di cui anche mi fido. Ho separato l'idea del consiglio di amministrazione dalla dirigenza. È una cosa diversa nominare il consiglio di amministrazione da quello che è il dirigente operativo. Prima era una cosa diversa, si faceva che l'amministratore faceva anche il dirigente. È ben diverso invece. Io separo l'attività, l'operatività della società, che è in mano a dei manager. Alcuni sono stati riconfermati perché molto capaci, molto bravi. Altri verranno sostituiti. In una logica assolutamente di ristrutturazione di tutte quante le imprese. Pensate che abbiamo il casino di Venezia e non siamo capaci, abbiamo dovuto finanziarlo per 5 milioni. Per cui le persone che ho messo, io è come se avessi una lista civica e avessi un mio partito. È chiaro che in qualche caso ho messo le persone che ho conosciuto in questi 4 mesi di campagna elettorale. Persone di cui si fida. Lei dice ci metto la mano sul fuoco, possono essere parenti, eccetera, ma sono persone di cui. Scusi, le do anche questa notizia che non è precisata. Io prima di fare le nomine, perché le ho fatte la settimana scorsa, ho preso 3 mesi di tempo e ho cambiato gli statuti di tutte le società partecipate e ho fatto scadere le nomine non più a 3 anni, ma alla fine del bilancio 2016, per cui un anno e 2 mesi. Allora si verificherà. Sindaco, noi la dobbiamo salutare, beva un bel caffè con Adriano Celentano, lo inviti a Venezia così chiudiamo questa polemica che non se ne può più. Ma io non ho nessuna polemica, sono loro che se la prendono con me, io rispondo e basta, è che non sono abituati, ai politici che rispondono, io sono un politico un po' così. Io la imploro, resti più imprenditore che politico, la imploro. Comunque, una buona giornata, la ringraziamo, sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, grazie per essere stato ovviamente con noi. Però tu mi devi far concludere la puntata su questa gravissima notizia. Molto sottovalutata dai giornali italiani, che sta in un report internazionale e che l'attacco più grave che il terrorismo porta alle imprese italiane. Ieri il rapporto di PricewaterhouseCoopers e Banca Mondiale su Paying Taxes in the World, come si pagano le tasse nel mondo, e il picco dell'attacco terroristico alle imprese italiane è che noi abbiamo il 64,8% di total tax rate, cioè imposte e cuneo fiscale, rispetto a una media europea, adesso le imprese italiane quest'anno, rispetto a una media teoria del 40,6%. Questo è il terrorismo del taglieggiatore stato ladro. Se qualche ascoltatore si irrita per i miei toni, 64,8% rispetto al 40,6%. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar, tu sei domani qui e poi invece ci rivedremo anche lunedì. Perfetto. Va bene?